Questa è una struttura praticamente tra quelle chiuse una undicina di anni fa, quando in tutta Italia, in Calabria, anche si parlava di spending review. Quel tempo il commissario era anche il presidente di regione, Scopelliti del centrodestra, insomma si decise, sotto la spinta dei tagli lineari senza senso, di chiudere delle strutture. Tra queste hanno chiuso quella di Cariati, e da quel momento questo territorio, diciamo, è rimasto scoperto di assistenza pubblica sanitaria. Si è creato un effetto domino, per cui da quando hanno chiuso questo presidio, quelli rimasti aperti hanno sofferto e continuano a soffrire, diciamo, il sovraccarico, no? Da questo punto di vista, insomma, si è scoperto a distanza di 10 anni, ma le avvisaglie sono molte da subito, che evidentemente tagliare la sanità pubblica, insomma, non avrebbe portato nessun risultato positivo, e lo stiamo vivendo purtroppo sulla nostra pelle. Dal 19 novembre, insomma, si è sviluppato quindi un tipo di battaglia abbastanza forte, che ha fatto parlare in generale in tutta Italia, che sta portando i primi risultati. La questione è questa: da 11 anni soffriamo di un'emergenza sanitaria, diciamo, strutturata. Da un anno a questa parte la pandemia ha portato all'ingangrenirsi della situazione, quindi diciamo è una situazione non più sostenibile. I cittadini si sono autodeterminati in questo senso, e da novembre, dici bene, dal 19 novembre stanno portando avanti questa battaglia. Primo ospedale occupato nella storia d'Italia, insomma questo è un vanto, un piccolo vanto che ci portiamo con noi, insomma. Facciamo capire bene anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Bologna cosa significa non avere un ospedale in quella zona lì. Qual è l'ospedale più vicino? Cosa sono costretti a sopportare i cittadini e le cittadine? In pratica questo è un territorio che viene definito per i criteri come zona disagiata, anche perché il presidio, diciamo, viene legato a un territorio che va dal Basso Ionio Cosentino all'Alto Cotonese e alla Sila Greca, diciamo un territorio, un bacino di utenza che d'inverno si aggira intorno alle 100.000 unità, ma che d'estate addirittura triplica. Le infrastrutture sono rappresentate ad esempio dalla 106, che è una strada statale riconosciuta in tutta Europa per l'alto tasso di mortalità, per cui, ti ripeto, da quando hanno chiuso questo presidio sono saltati tutti i parametri, ad esempio, riferiti all'emergenza urgenza. Qua manca il pronto soccorso, mancano i posti letto, una situazione che è imparagonabile con quella dell'Emilia Romagna, dove c'è un sistema, nonostante stia soffrendo anche questo ultimamente per certe politiche, ma che sicuramente non è paragonabile a quello calabrese. In più in Calabria si esalta il paradosso per cui il servizio pubblico soffre, continua a soffrire, mentre i privati continuano ad ingrassare, e per privati mi riferisco a quelli accreditati dallo Stato. In questa situazione va anche messo a calcolo, diciamo, il fatto che per la Calabria vanno sempre meno risorse di quelle che vanno invece ad altre regioni. Insomma, una situazione devastante. Per quanto riguarda questo territorio in particolare, diciamo, è diventato l'emblema di questa disfunzione, diciamo, che c'è anche da parte dello Stato, e Cariati in particolare da 4 mesi, diciamo, si è fatto, diciamo, portavoce di un disagio regionale. Proprio per questo si è scatenata anche una gara di solidarietà, ma anche una partecipazione molto, molto attiva, tanto è vero che il presidio è vissuto, diciamo, da uomini e donne di tutte le età, ed è, diciamo, molto partecipato anche per questo, è diventata una piazza di condivisione. Tu pensa che anche in questo periodo siamo in zona rossa, tra l'altro il territorio sta soffrendo, diciamo, l'alto numero dei contagi, quindi questo problema è sentito in modo maggiore. Noi, nonostante tutto, nonostante anche il pericolo, siamo da 4 mesi che occupiamo letteralmente questa sala, in quest'ala, diciamo, dismessa di questa struttura, che tra l'altro è una struttura che è usata solo per il 25%, stiamo parlando di 13.000 metri quadri in ottime condizioni, mentre in Italia si continuava a parlare un anno fa di mancanza di ossigeno e di mancanza di posti letto. Qui abbiamo a disposizione 13.000 metri quadri e l'ossigeno già canalizzato, insomma una situazione paradossale che a chiunque è venuto qui a visitare la struttura è rimasto, diciamo, esterrefatto e sbalordito. L'ospedale più vicino è una 40 chilometri. Allora, abbiamo praticamente, tu calcola, in un territorio che va da Crotone fino a Policoro, quindi in Basilicata, ci sta solo un pronto soccorso che è a 50 chilometri. Però oltre al problema, diciamo, riferito a Cariati, il territorio, diciamo, ne soffre perché c'è l'entroterra, quindi i paesini come Campana, altri paesini che stanno, diciamo, più nell'entroterra, hanno il problema, si triplica. Ecco perché viene identificato questo come un presidio di un intero territorio, non è certo il presidio di un paese soltanto. Ecco l'importanza dove si va a verificare. Come state vivendo la pandemia? Tu dicevi appunto che i nodi sono venuti al pettine, soprattutto anche in questo periodo di pandemia. Come la state vivendo? I calabresi in generale, secondo me, la vivono con un, diciamo, un peso maggiore, perché, ti ripeto, c'è una situazione critica già a prescindere dal Covid, e con il Covid si è incancrenita. Alloggi mancano in Calabria, non solo i posti letto, ad esempio, per altri, per il Covid, ma mancano i posti letto in generale per altri tipi di servizi, per una miriade di servizi. E la tattica che viene usata, Alessandro, è quella della rana, e cioè snullare i servizi piano piano, ad esempio un medico va in pensione e non viene sostituito, ad esempio un infermiere va in pensione e non viene sostituito, viene trasferito e non viene sostituito, e piano piano vengono tolti i servizi. Quindi all'oggi non solo sta soffrendo la medicina territoriale, ma sta soffrendo anche quella ospedaliera. Non soffrono solo della giornata accreditata. Noi non capiamo, insomma, com'è possibile, no, che in questa situazione c'è chi continua a ingrassare, chi continua a sprofittare, chi continua a soffrire. In questo senso, guardi, una lezione alla Calabria, ma in generale la potrebbe dare Gino Strada. Ci vuole una prospettiva per quanto riguarda la sanità, che all'oggi manca, non la sta dando il commissario, e invece la darebbe Gino Strada ed Emergency, che già non è la loro disponibilità a dare una mano in Calabria. Purtroppo, in una situazione di emergenza, la regione Calabria e il commissario non stanno neanche approfittando di chi vuole, di chi porge la mano per dare un aiuto. Questa è la situazione. Dopo lo scoppio di pandemia in tutta Italia, anche il precedente governo aveva detto mai più tagli alla sanità, bisogna tornare a investire nella sanità. Voi in questi 4 mesi di occupazione avete avuto, come dire, confronti con le istituzioni, avete capito se ad esempio questo ospedale possa tornare a essere operativo e se c'è l'idea di investire sulla sanità pubblica? A livello generale la questione è andata anche in Parlamento, portata in Parlamento da più partiti. Per i contatti che abbiamo, per le questioni che sono state rese note, sappiamo che c'è una volontà a livello trasversale. Quello che si sta provando a fare è sollecitare, diciamo, un ragionamento appunto trasversale tra i parlamentari calabresi per portare avanti questa istanza, che all'oggi è già sul tavolo di Sileri, che ha valutato il presidio come indispensabile per una riorganizzazione della rete ospedaliera per acuti calabrese, e pochi giorni fa siamo, insomma, tramite un parlamentare siamo riusciti in qualche modo a raggiungere anche Speranza. Anche lui ha ammesso che la questione calabrese va risolta con una riorganizzazione della rete ospedaliera, quelli di alcuni territori che sono più disagiati, eccetera. E in questo senso assolutamente dei passi avanti si sono stati fatti. Anche nel piccolo, ad esempio, abbiamo portato avanti una battaglia per l'assunzione di 3 OS per un reparto di RSAM che è presente nella struttura, e ci siamo riusciti. Insomma, come cittadini dobbiamo sempre fare vanto e cercando di stare con i piedi a terra, riconosciamo noi stessi che abbiamo portato dei risultati, che stiamo dando in qualche modo anche una lezione alle istituzioni locali, perché il territorio è abbandonato principalmente dalle istituzioni e lo Stato in questo senso latita. I cittadini vogliono cambiare il verso di questa storia, ci stanno provando dal basso, i primi risultati stanno arrivando. Dopo 4 mesi è chiaro che ora, diciamo, la palla passata in qualche modo alla politica in senso stretto, ed è questa bisogna accelerare. Quello che non capiamo è come mai, appunto, in una situazione di emergenza si continua ad andare, diciamo, lenti e si continua a fare pastrocchi con la burocrazia e non si prova invece a cambiare marcia.